carta incunata, già so. Nella latrina sgorgante cadaveri non eccellenti però. Sorgo un domande ma niente risposte, ma poi mercoledì viene dall'etere, sì. Pronto lo stomaco, pronto a ingoiare. Pillola rossa, pillola, pillola rossa. Pillola, pillola rossa. Pillola, pillola rossa. Non sono io a non essere credibile, non sono io a dovermi giustificare. Voi rinchiudete la gente, la fate ammattire nelle fabbriche, negli ospedali, nelle caserme. Io creo sogni, voi li uccidete. Io parlo sboccato, voi nemmeno parlate la nostra lingua. Ci lasciate ai bordi, ci fate vedere donne che non potremmo avere, posti dove non potremmo entrare, cose che non potremmo comprare. Non siete diversi da noi, ladri e puttane vestiti bene. Voi ci rubate il tempo, che è l'unica cosa che abbiamo. Ci insegnate a tradirci e a non fidarci più l'uno dell'altro. Voi spacciate certe droghe nelle farmacie e ci arrestate se ne vendiamo altre. E noi ve lo lasciamo fare tutto questo, perché nella vita non c'è mai scelta tranne che in certi campi, ma mai in quelli importanti. Ma io non voglio essere un prodotto del mio ambiente. Voglio che il mio ambiente sia un mio prodotto. È la 19ª puntata con l'Eco, sabotaggi ovunque, l'Eco rimane lo stesso, è la 19ª puntata di Pillola Rossa, mi dispiace per l'Eco. Sì, dopo vai. Anche questo un po' Eco. Dopo la puntata saltata settimana scorsa, dopo la chiusura inaspettata del gruppo Telegram, perché Telegram ha deciso, non si capisce perché, sabotaggio sicuramente, quindi saltando il manifesto, giusto? Andiamo. Pillola Rossa, programma di musica italiana con la GL, per rendervi edotti sulla realtà tramite dei testi in italiano. Bravo, grazie. Improvvisato, senza leggere, bravissimo. Scusate il gracchio, i problemi sono sempre gli stessi. Per i nostri tre ascoltatori, esclusa la Groenlandia. Sì, dunque, passato Radio Cavedio, che ha trasmesso dalle 6:15 alle 7:15 più o meno, storie di 25 aprile a Genova di musica dance in spiazza, ho sentito. E noi adesso iniziamo con la dedica che era stata richiesta settimana scorsa, due settimane fa. Certo. Certo, tu nonna. Certosino, tu nonna. Pasta con tonno. Ciao ragazzi. Pasta con tonno, con tonno, con tonno, con tonno. Tutti sanno che mangio pasta. Tutti sanno che mangio pasta con tonno, con tonno, con tonno. conto no, conto no. Ma che ore sono? Mezzogiorno e mezzo. Quando ero a scuola pensavo solo pasta. Sono in cucina, sembro uno chef. Conto no, I can put it in my bread. Per la mia figa preparo un po' di pasta. Se non mangio pasta, allora non mi parla. Se non mangio pizza, allora non mi tocca. Anche lei lo sa che mangio solo pasta. Posso spendere 10.000 euro per il tonno. Mi stanno cercando per rompermi il collo. Posso spendere 10.000 euro per il tonno. Mi stanno cercando per rompermi il collo. Tutti sanno che mangio pasta, conto no, conto no, conto no, conto no. Tutti sanno che mangio pasta, tutti sanno che mangio pasta, conto no. Pasta. Se non è pasta, allora sarà pizza. Alle mie serate mangio solo pizza. Dopo serata mangio solo fica. In America mangiavo solo pasta. E anche in Germania mangiavo solo pasta. E anche a Londra mangiavo solo pasta. In Africa e ancora mangio pasta. Come un arabo che non scherza con kebab. Come thailandese che non scherza con il riso. Come italiano che non scherza con le pasto. Figo swag, no, io non scherzo con il tonno. Come un arabo che non scherza con kebab. Come thailandese che non scherza con il riso. Come italiano che non scherza con le pasto. Figo swag, no, io non scherzo con il tonno. Tutti sanno che mangio pasta. Tutti sanno che mangio pasta. Con tonno, con tonno. È molto difficile fare i patrioti, parlare di patriottismo quando odi metà della tua patria. È dura, eh? Per molti il patriottismo è tornare ai bei tempi in cui si poteva prendere a botte gli isolati. Quando si poteva menare gli straccioni, i barboni, i terroni, le donne, eh? Avete notato? Non si può più per convenzione sociale prendere a botte le donne. Qualcuno lo fa, ma sa che è diventato un reato vero. Ovviamente non sto parlando dei folli, degli assassini e dei vigliacchi. No, sto parlando del nostro amato popolo. Molti rimpiangono i bei tempi di quando la promessa di una lavatrice ti permetteva qualche sganassone il sabato sera. Quei tempi se ne sono andati quando la chiesa durante il matrimonio ha smesso di obbligare la moglie a seguire il marito. D'altronde la chiesa aveva il suo bel da fare a custodire i bambini degli altri. E quanto bene li custodiva. Le donne ormai non si possono più toccare. Non c'è più quella protezione sociale che ti faceva capire di essere nel giusto. Sì, ci sei, ci sei. Ci siamo. Male, ma ci siamo, ragazzi. Abbiamo tolto anche l'eco in diretta, pillola rossa, 19ª puntata. Sì, allora, parliamo alla fine di brutta notizia questa settimana. E... è morto una persona che abbiamo dato tanti audio comunque, perché era uno che in consiglio comunale, in consiglio regionale, comunque uno dei pochi che si dava da fare, uno di quelli che aveva una concezione di lotta. Un fratello. Quindi se n'è andato Monguzzi, Carlo Monguzzi, e lunedì hanno sospeso anche la seduta in consiglio comunale, cosa che non sono convinto tanto che sarebbe stato d'accordo, in quanto si doveva parlare appunto di vietare la manifestazione di sabato 18 e di quanto fosse consona una manifestazione apertamente razzista, però l'han fermata, il consiglio sarà domani, per ricordare, insomma, e per far capire un po' cosa c'era e cosa diceva. Abbiamo un audio. Il signor Monguzzi, ricordiamo, si è dimesso come ultima cosa quando hanno arrestato tutta la giunta comunale per i traffici illeciti mafiosi delle Olimpiadi, e si è dimesso perché non aveva più capacità di agire, e quindi per mandargli a fanculo un'ultima volta aveva lasciato, esatto, la giunta. Si era dimesso da questa giunta sala e da tutto. Parla molto meglio lui. A promemoria vi lasciamo con due parole del signor Monguzzi. Ciao Monguzzi. Ciao. A Milano ci sono 49 consiglieri comunali, compresi il sindaco. Il Salva Milano ieri è stato votato da 22 su 49, quindi una risicata minoranza, che è un fatto politico importante. Dopodiché, per andare avanti, ragazzi, non è più come prima. La cosa votata ieri è la pagina più buia della sinistra a Milano da quando io faccio politica. Ma la sinistra a Milano deve fare la sinistra. Se la sinistra fa la destra, uno vota direttamente a destra. Ah, oggi che sparano in faccia alla gente, col plauso del presidente, il pubblico applaude silente. Bello questo occidente, democrazia sotto custodia cautelare, cautelare. Che chi comanda si deve proteggere, cautelare, cautelare. Cauterizzare ferite non basta, i segni poi restano, ste merde prima sorridono e dopo t'arrestano, dopo t'arrestano. È un mondo passato sotto lo scan, vuole il clash come Joe Strummer, radiazioni come Bruce Banner, Philip Dick, Blade Runner, mo che deportano pure i bambini in nome della sicurezza. Tutti piegati a fare gli inchini da bravi alla corte di vostra altezza. Sua maestà, capo branco, maschio occidentale bianco, con il sorriso dello sciacallo, con il nemico che poi è sempre l'altro. Noi siamo i figli non voluti, troppi battiti per sti minuti. Siamo gli angoli bui, camminiamo di fianco coi lupi. Siamo il panico sotto pelle, siamo il panico sotto cassa. Buchi neri in mezzo alle stelle, e ancora che non ce passa, non ce passa, non ce passa. Oggi che sparano a casaccio, no, non ce passa, non ce passa. Oggi non basta avere, no, coraggio, non ce passa, non ce passa. Oggi che passano tutto, no, a setaccio, non ce passa, no. Ah, per me liscio, no ghiaccio, no ghiaccio, no ghiaccio, no, no, no ghiaccio, no ghiaccio, no ghiaccio, no, no, no, no, no ghiaccio, no ghiaccio, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no ghiaccio, no ghiaccio, no, no ghiaccio. Oggi che la verità è solo un business, yo. Mondo sotto dittatura, passa tra detox e distress. Smontano i punti cardinali con i vescovi e i cardinali, capi di stato collusi con i criminali. E noi come animali, bestie da soma, prede da caccia, cavie da laboratorio, formule magiche, esperimenti sul tavolo operatorio. Qua solo inferno e purgatorio, senza passare dall'ambulatorio. Torture nelle questure e un torturistico all'obitorio. Noi siamo i morti viventi che assaltano il supermercato, dall'altra parte di un mondo protetto dal filo spinato. L'impero. Già, siamo il panico sotto pelle. Già, siamo il panico sotto cassa. Buchi neri in mezzo alle stelle. E ancora che non ce passa. Non ce passa. Non ce passa. Oggi che sparano a casaccio. No, non ce passa. Non ce passa. Oggi non basta avere coraggio. Non ce passa. Non ce passa. Oggi che passano tutto a setaccio. Non ce passa. No, per me è liscio. No ghiaccio. No ghiaccio. No ghiaccio. No ghiaccio. No ghiaccio. Allora, questo era Mask featuring Danno e DJ Baro. DJ Baro ce li spiega meglio in due parole. Brainstorm qui ospite in diretta, che è venuto a trovarci. Che è venuto a trovarci, sì. Ciao a tutti. E niente, c'è poco da spiegare. Se un pezzo uscito in un momento sociale, culturale, storico nostro che stiamo vivendo, dove artisti di un calibro, di un certo livello, non siamo noi tre cazzoni che stiamo parlando di artisti che vivono di questo, quindi stiamo parlando di un DJ che vive di musica, di un rapper che ha appena fatto uscire un disco perché sta facendo un tour italiano. Ma che non quindi ex Colle del Fomento. Esatto, Danno, ex Colle del Fomento e DJ Baro. Esatto. Appoggiati al Quadraro Basement, quindi il mastering, questa roba lavorata da per tutti i professionisti che hanno messo al hanno offerto la loro popolarità, se vogliamo chiamarla così, per lanciare un messaggio che è no ice, il discorso che questo ice americano che vuole essere, vuole diventare questo controllo di polizia, che vuole diventare... Certo, contro la repressione, esatto, vogliono forzata. Creare questi stati polizieschi, questi stati... Assolutamente, nel video tra l'altro si vede anche molto bene, e se non sbaglio c'è anche uno strascico della manifestazione di Milano, sai, di quella che è passata da Piazzale Corvetto. Ma sì, perché proprio come dicevo, anche il video, come il mastering, come Mask che ha creato la base, come DJ Baro che ci fa gli scratch, come Danno, stiamo parlando di professionisti, di gente che lo fa per lavoro e ci vive, ma che senza scendere a compromessi, perché questa è la cosa difficile. Esatto, c'è tanta gente che riesce a vivere di arte, però deve scendere a compromessi. Invece loro sono rimasti attivi, attivisti, portando quindi questo discorso, riuscendo a far capire alle persone che non è tutto, ok? Ognuno deve lavorare perché dobbiamo avere un tetto sopra la testa, perché dobbiamo mangiare, perché questa società in cui viviamo ci impone questi cliché? Sì, cioè questi diciamo passi un po' che qualcuno deve fare, bisogna fare forzati, però l'importante è non perdere di vista... diciamo l'obiettivo e quello che bisogna fare. Allora, per non perdere di vista l'obiettivo, che fino a qui ci siamo, perché tra le altre cose c'è qui brainstorming? Perché Brainstorm, perché probabilmente noi lavoriamo per questo, riprenderà Pillola Elettronica e Brainstorm, giusto? L'ho detto bene? Brainstorm, ragazzi, ce la posso fare? Dai, ce la faremo. Ce la posso fare? Non è quello il problema, non ti preoccupare. Brainstorm riinaugurerà nella terza stagione la pillola elettronica. Adesso poi capiamo a livello tecnico come l'affronteremo, però... Esatto. Io vi ringrazio di questo spazio e... mi fa molto piacere. Figurati, noi siamo qua, la radio è libera e aperta, no? Come si dice. E quindi prossimamente sulle frequenze di Radio ZM ci sarà anche Brainstorm, come ha detto Nettuno, ancora da fissare un attimino la fascia oraria, se è prima di noi, dopo di noi. comunque sarà mercoledì. E comunque questo, e vi lasciamo, salutiamo, magari anche no, magari resta, boh. E tanto facciamo sentire un pezzo audio, perché per far capire che qua qualcosa, sabato comunque la città è piena di cartelli, E presenzia il Gotha di Fratelli d'Italia. Ci sono Paola Frassinetti, Carlo Fidanza, Ignazio La Russa, Daniela Santanchè, Adolfo Urso e soprattutto la leader Giorgia Meloni. Tra il pubblico che accoglie la futura premier mentre fa il suo ingresso in sala c'è anche Gioacchino Amico. Dopo aver salutato l'ingresso di Giorgia Meloni, Gioacchino Amico resta in sala ad ascoltare l'intervento conclusivo della leader di Fratelli d'Italia. Tutta la classe dirigente di Fratelli d'Italia che proprio in queste ore, proprio qui, nel cuore dell'Italia produttiva, nel cuore dell'Italia che chiede rispetto, che chiede la possibilità di lavorare e di crescere, ci sta regalando grandi soddisfazioni. Allora, giusto... per ribadire, sabato 18 c'è manifestazione e contromanifestazione. La manifestazione è quella che accennavamo prima, insomma, patriots.e, ovvero c'è la destra più becera del Parlamento europeo, si ritrovano qua per parlare di remigrazione, parlare di cancelli chiusi e parlare di repressione sostanzialmente, e parte penso da Porta Venezia, si era contestato un po' che più che altro è il pezzo di tragitto è quello del 25 aprile, quindi c'è anche questa doppio smacco. Monguzzi aveva tentato di vietare questa cosa perché è apertamente anticostituzionale, però si stanno organizzando comunque qua e delle contromanifestazioni per ribadire che Milano non è d'accordo con questo. Fascisti e mafiosi. I fascisti che hanno massacrato e derubato Roccastrada hanno detto di aver vendicato i loro morti di Sarzana e lo hanno telegrafato a Mussolini. E i giornali borghesi lo hanno pubblicato. Quei socialisti che a Roma si illudono di poter fare la pace con i fascisti sono serviti. Se vogliono continuare a illudersi, facciano pure. Ma le illusioni non fanno per noi. Noi dobbiamo aprire gli occhi, aprirli presto e bene. Compagni, ieri Sarzana, oggi Roccastrada... Domani toccherà alle grandi città industriali, toccherà a Milano, a Torino, a Genova. I fascisti non sono più piccole bande male armate e disorganizzate, ma eserciti veri e propri. E noi qui a Sarzana lo abbiamo ben visto e constatato di persona. Siamo di fronte a un nuovo sviluppo del fascismo. Compagni, il colpo di stato fascista è già incominciato ed è incominciato qui, a Sarzana. Io voglio sapere dalla Confederazione Generale del Lavoro se ha predisposto un piano di difesa che permetta alle popolazioni di difendersi e di resistere all'offensiva fascista. E la stessa domanda rivolgo al sindacato Ferrovie. Non basta più. Bravo, bravo. Così. Io infatti avevo già un'idea, ieri sera ho buttato giù un piccolo plot. Allora, senti che bei nomi, idee. Massimo degrado e danni irreparabili. È tutto un programma. La notte che son partito non ho dormito pensando a te. Avevo presentimento e un gran tormento dentro di me. Sentivo di non trovarti. Temevo di non vederti. Di giorno sono arrivato, non sei venuta incontro a me. Non sai quanto ho camminato tenendo a tutti cercando te. Sentivo di non trovarti. Capivo di non vederti. Lo sa soltanto il cielo perché sia finita per me. La notte che son partito non ho dormito pensando a te. Avevo un presentimento e un gran tormento dentro di me. Sentivo di non trovarti, temevo di non vederti. Se adesso tu mi lasci è finita per me. Ho da dire che sono innocente. In tutta la mia vita non ho mai rubato, non ho mai ammazzato. Sei stato bravo perché tu anche segui la politica, la Meloni, Trump, Santanché, quelle storie lì che io ho intrasentito, capito? Non mi sono mai fatto un'idea precisa e poi quel voto lì era veramente, veramente, veramente tecnico e bisognava sapere un po' di retroscena. Ascoltare anche un po' i telegiornali, cosa che io non faccio, e quindi io non sono andato per questo, non avevo info, cioè non sapevo che cosa dovevo fare proprio. Però il no è proprio un segnale, quindi sì, e speriamo che ci riapra il gas. Allora, ragazzi, a proposito del discorso la mafia, il fascismo, che cos'è? Arriva sulle pagine dei quotidiani la notizia che a Bologna Solidarity Collectives vengono dall'Ucraina, così vengono definiti, e sono espressione di una rete di provenienza anarchica. Allora, questi soggetti che si sono fatti ospitare a Bologna propagano l'arruolamento nell'esercito ucraino per combattere la guerra. Allora, secondo noi, secondo me in particolare, chiunque si arruoli presso un esercito di una potenza straniera sovvenzionato da armi straniere gestite dal capitalismo non è un anarchico. Allora, poi può essere un infiltrato dei servizi segreti anarchico o comunque un burattino e uno che non usa la propria testa, e dal momento che non usa la propria testa ed è un burattino continua a non essere un anarchico. Lasciamo la parola a qualcuno che le spiegava molto meglio di me. Sì, ho da dire che sono innocente. In tutta la mia vita non ho mai rubato, non ho mai ammazzato. Non ho mai versato sangue umano, io. L'ho combattuto per eliminare il delitto, primo fra tutti. Lo sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo. E se c'è una ragione per la quale sono qui è questa e nessun'altra. Una frase, signor Katzmann, vi torna sempre alla mente. Lei, signor Banzetti, è venuto qui nel paese di Bengodi per arricchire. È una frase che mi dà allegria. Io non ho mai pensato di arricchire. Non è questa la ragione per cui sto soffrendo e pagando. Sto soffrendo e pagando per colpe che effettivamente ho commesso. Sto soffrendo e pagando perché sono anarchico. E mi sono anarchico. Perché sono italiano. E io sono italiano. Ma sono così convinto di essere nel giusto che se voi aveste il potere di ammazzarmi due volte e io per due volte potessi rinascere, rivivrei per fare esattamente le stesse cose che ho fatto. Nicola Sacco. Il mio compagno Nicola. Ci può darsi che a parlare io vada meglio di lui. Ma qua Quante volte, guardandolo, pensando a lui, a quest'uomo, che voi giudicate ladro e assassino, e che ammazzerete. Quando le sue ossa, signor Tyer, non saranno che polvere, e i vostri nomi, le vostre istituzioni, non saranno che il ricordo di un passato maledetto, il suo nome, il nome di Nicola Sacco, sarà ancora vivo nel cuore della gente. Noi dobbiamo ringraziarli. Senza di loro noi saremmo morti come due poveri sfruttati. Un buon calzolaio, un bravo pescivendolo. E mai, in tutta la nostra vita, avremmo potuto sperare di fare tanto in favore della tolleranza, della giustizia, della comprensione fra gli uomini. Voi avete dato un senso alla vita di due poveri sfruttati. Nicola Sacco, avete qualcosa da dire prima che la condanna a morte sia resa esecutiva? No. Va dicendo in giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore. Il mio Pinocchio fragile, parente artigianale, di ordigni costruiti su scala industriale, di me non farà mai un cavaliere del lavoro. Io son d'un'altra razza, son bombarolo. Nel scendere le scale ci metto più attenzione, sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza si ammala di terrore, c'è chi aspetta la pioggia per non piangere da solo. Io son d'un altro avviso, son bombarolo. Intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti, e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti, ma finché li cerco io, i latitanti sono loro. Ho scelto un'altra scuola, son bombarolo. Potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto, quasi niente sbagliato, cercando il luogo idoneo, adatto al suo tritolo, insomma il posto degno d'un bombarolo. Lo vide ridere davanti al Parlamento aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente nell'orgoglio fu l'immagine di lei che si sporgeva da ogni foglio, lontana dal ridicolo in cui lo lasciò solo, ma in prima pagina col bombarolo. Abbiamo mandato prima un pezzo di Jimmy Fontana dal giorno che sei partita del 1964 con uno slap di basso. Quello del mondo. Wow. Salutiamo Anna che è ritornata a casa dall'ospedale, la nostra ascoltatrice 87enne, la nostra ascoltatrice più longeva, a parte quello in Groenlandia che ripetiamo, però lì c'è il blocco. Quindi un saluto Anna, ciao, bentornata. E abbiamo ascoltato De André col bombarolo per chiarire l'avevo riconosciuto. O tre cose sull'anarchia, ma così proprio, così. In un paese così noi abbiamo capito che lo Stato non basta. Con questa voglia di magnare fondi pubblici in Italia il rigore è superfluo. Bisogna aumentare i fondi pubblici. Come? Aumentando le tasse. Però non le puoi chiamare tasse, perché in campagna elettorale avevi detto al popolo fesso che le avresti abbassate le tasse. Allora le chiami in un altro modo. Lo Stato non basta, ci vogliono le regioni Stato. Ecco che il presidente di regione, una carica di per sé simile a quella di un cappellano, diventa più importante del presidente della Repubblica. A un paese così corrotto e spezzettato, secondo me non bastano nemmeno le regioni. Bisogna tornare ai comuni. Ma i comuni medievali, con tutta questa sete di prebende, di stipendi pubblici, di vitalizi secolari, con tutta questa gente che deve sistemare i parenti, con questi amici che si buttano al volo sul divano, bisogna aumentare i fondi pubblici. Non basta più l'IMU, la TARES, le immondizie, l'acquedotto che costa come il gas, le partecipate e tutto il resto. Bisogna tornare al Medioevo. Bisogna tornare all'esercito comunale. Nuovi armamenti fiammanti, divise nuove, un campionato di calcio comunale, sponsorizzato da super sponsor ai quali applicheremo uno sconto sulle tasse, che poi recupereremo applicando ulteriori balzelli ai fessi seduti sugli spalti. Se vuoi gridare alè alè, paghi 80 euro. Bravo, bravo, così. Io infatti avevo già un'idea, ieri sera ho buttato giù un piccolo plot. Allora, senti che bei nomi, Massimo Degrado e danni irreparabili. È tutto un programma. presenza di Zoo da Roma con Ostia. Abbiamo costruito un impero e ci siamo fatti organizzare tutto, da Milano all'ultimo giorno della vigilia, passando alla Calabria, da Napoli. Napoli un giorno da fare io. La voce che avete sentito è di Gioacchino Amico, una delle figure centrali del consorzio mafioso lombardo. Per anni ha tessuto la trama dei rapporti tra le cosche di 'Ndrangheta della provincia di Varese, le famiglie di Cosa Nostra, presenti nell'Interland milanese, e gli esponenti della Camorra. Conosceremo tutto, sempre dove, con il provente di Milano, Milano, con il provente di Roma, Roma, con il provente di Calabria, Calabria, con il provente di Sicilia, Sicilia, certo. Così noi sul territorio non abbiamo discordanze. Questo è bellissimo. Facciamo cagare. Tutti quei dinosauri, quegli inutili di gradina, tutta la Cittadina. Allora, questo... Vabbè, prima erano gli Zoo, l'abbiamo già detto. Importante ripeterlo che... Gran gruppo italico poco considerato in patria, vero? A proposito di Patriots, cazzo, non devi vedere gli Zoo, no? Era una Mezzago settimana scorsa. E agganciandoci a uno dei grandi contributi che ci portano sempre l'imperatore ABC, Regio Imperatore ABC. Che appunto parla di mondiali, parla ovviamente dell'ennesima figuraccia dei mondiali. Aieie. E allora, vabbè, la storia ormai è risaputa, tre qualificazioni fallite dopo il mondiale vinto nel 2006, due uscite dai gironi nel 2010-2014, poi nulla. Però ogni anno cosa succede? Succede che ogni quattro anni cosa succede? Succede che arriva sempre l'articolo che dice: attenzione, Italia ripescata. E tutti a leggere, a cliccare. Ma perché ripescata? Perché c'è sempre una ragione, e in questo caso la ragione è... Però un fondo di verità ce l'ha, anche se il ripescaggio è molto molto improbabile. Si parla di Iran, si parla di mondiali negli Stati Uniti. È il primo mondiale che è stato giocato in tre nazioni diverse, quindi Stati Uniti, Messico e Canada. Lo scandalo. Scandal. Ma perché tu non sai ancora, perché il prossimi restiamo allo scandalo, all'abisso presente. Allora, l'abisso presente è sostanzialmente cosa succede? Che l'Iran, in questa fattispecie, in questa finestra temporale, non è in buonissimi rapporti con gli Stati Uniti, e ovviamente dove è stato sorteggiato il suo girone? Negli Stati Uniti. Esattamente, negli Stati Uniti. Chiaramente Iran, che si è qualificato, ma non con gli spareggi, si è qualificato già nei gironi ufficiali asiatici. A mani basse. E cosa richiede? Richiede che di essere spostato, di giocare le partite, se non altro in Messico. Non c'hanno così tanta voglia di andare negli Stati Uniti a giocare a calcio tra una bomba e l'altra. Possiamo criticarle? Direi di no. Allora, quanto pare, insomma, una prima risposta è stata negativa dal signor FIFA. E questo apre la porta, perché l'Iran ha comunque comunicato che se non avverrà questa cosa non parteciperanno ai mondiali, quindi si apre un posto ai mondiali. Ora, di base, chi ci andrà? Una squadra asiatica dentro una squadra asiatica. Per Bacco, yeah. Per Dinci. E qual è la squadra asiatica? che è arrivata fino in fondo ma ha perso l'ultima partita, porcaccia miseria, e gli Emirati Arabi Uniti. Capito? Avete capito com'è la storia? Ma... la storia è sempre la stessa. Sì, ma ho tre giocatori, perché quando c'era Coso lì, anche te, sei il qualunquista, quando c'era Bonucci che lì non si andava lo stesso, Inter rovina della nazionale. Tre giocatori su 24, dai, ma non diciamo scemenze. Quando sono nato nonno ha detto: questo figlio qui è benedetto. Avevamo tutto senza avere niente, ci sentivamo ricchi anche in mutande. Qualche anno dopo son cambiato, il benessere mi ha divorato. Questo schermo mi dà l'illusione di essere sempre dappertutto, ma di non esserci col cuore. Siamo spilorci, siamo cani, siamo diventati avari, ma l'avaro è come il porco, è buono solo dopo morto. In questo mondo che c'è tutto io non voglio avere niente, il mondo finge di star bene, io voglio solo stare male. E bevo vino in cartone e poi canto per ore. Non faccio guerra a nessuno e poi scrivo sul muro. La vita eterna è una bugia, la vita è ora è tutta tua, diceva sempre mio papà. Difendi la tua libertà, da da da, da da da. Difendi la tua libertà, da da da, da da da. Rimaniamo nudi in mezzo a un prato e a fanculo libero mercato. Tenetevi oro, soldi e paura, ridateci mari, alberi e natura. Basta affari e multinazionali, basta guerre e bombe nucleari. Tenetevi presidenti e professori, ridateci fricchettoni e fannulloni. Siete spilorci, siete cani, siete diventati avari, ma l'avaro è come il porco, è buono solo dopo morto. In questo mondo che c'ha tutto io non voglio avere niente, il mondo finge di star bene, io voglio solo stare male. E bevo vino in cartone e poi canto per ore. Non faccio guerra a nessuno e poi scrivo sul muro. Difendi la tua libertà, da da da, da da da. Difendi la tua libertà, da da da, da da da. Difendi la tua libertà, da da da, da da da. Difendi la tua libertà, da da da, da da da. Michele Senese era un ottimo amico mio. Qual era il ruolo di Michele Senese su Roma? Era uno dei primi camorristi a comandare su Roma, collegato con tutte le famiglie romane, calabrese e siciliane. Per conto di Michele Senese e del suo clan, Gioacchino Amico partecipava ai summit con i capi delle locali di 'Ndrangheta e con i referenti di Cosa Nostra, a partire da Paolo Errante Parrino, originario di Castelvetrano, ma trasferitosi da anni ad Abbiategrasso, dove gestiva un'azienda di macchinari per la ristorazione e un bar in Las Vegas. Signor Parrino, salve, sono Giorgio Mottola, sono giornalista di Report, la trasmissione Rai 3. E allora? Volevo fare due chiacchiere con lei. No, niente. Volevo... Niente. Che volevo chiedere di questa inchiesta. Ma quale inchiesta? Fatevi una camminata, va, dai. Volevo soltanto fare senza qualche domanda. Senza registrare niente, perché mi apro la testa in due, eh. No, fuori dai coglioni, dai. In faccia. Dai! Ora! Andiamo, andiamo. Ora! Sigla del podcast sostenibile. Podcast del sigla sostenibile. Benvenuti alla prima puntata di Podcast Sostenibile, il primo podcast a basso impatto ambientale. Tutti i materiali di questo studio sono riciclati, compreso lo studio stesso, che in realtà è casa mia. E anche il primo ospite è riciclato perché era già qui, infatti sono io, Marcello Macchia, anche detto Maccio Capatonda, giusto? Benvenuto Marcello, posso chiamarti Marcello? Sì, certo, è il mio nome, cioè il tuo, il nostro, diciamo. Esatto. Allora Marcello, grazie intanto di essere qui a Podcast Sostenibile. Vabbè, ma non ho fatto niente, ero già qui come hai detto. Comunque, andiamo al punto. L'inquinamento, troppe macchine, troppi consumi, uno sviluppo edilizio indiscriminato. Tu, Marcello, che cosa suggeriresti di fare per, diciamo, bloccare questo artificiale che si sta prendendo tanto spazio, no, rispetto al naturale? Niente. Come niente? Non devi fare niente, non dobbiamo fare niente. Ma perché dici niente, scusa? Stai facendo una gag? No, sono serio. Scusa, tu parli di artificiale che si sta mangiando gli spazi nel naturale, ma se ci pensi in realtà è tutto naturale. Cosa è tutto naturale? Scusa, i motori a benzina sono naturali, è tutto naturale. La benzina deriva dal petrolio, il petrolio si forma attraverso la sedimentazione di materiale organico sui fondali degli antichi laghi e oceani. I motori si fanno con la ghisa e l'alluminio, la ghisa. Stai dicendo che costruire un palazzo è come piantare un albero? Ma scusa, il cemento come è fatto? Sabbia, calcare, cioè cotte al forno, estratti dalle cave, cotte al forno. Quindi la soluzione per te per aiutare il pianeta è non fare niente? Certo, così acceleriamo il processo. Quale processo? Di che processo? L'estinzione, cioè noi ci estinguiamo così il pianeta ne beneficia. Ma che cazzo, scusate, che vuol dire ci estinguiamo? Se noi stiamo facendo tutto questo per salvaguardare il pianeta, anche per salvaguardare la nostra specie, soprattutto per la nostra specie. Ah, allora lo vedi che ve ne fotte solo della vostra specie, non del pianeta, E questo è il problema, no? A voi del pianeta non ve ne frega niente, cioè. Infatti state andando pure su altri pianeti a inquinare altri pianeti. Pensate che questo lo prendete, lo esaurite, lo buttate. Scusami, no? Tu non puoi dire una cosa del genere, non sei completamente fuori di testa. A parte che se lo dico io lo dici anche tu. Ma se ci pensi è sensatissimo. Perché scusa, cioè sono anni che parliamo di inquinamento, l'inquinamento qua, ma noi non facciamo assolutamente nulla. Cioè rispetto all'inquinamento che produciamo. Ho capito, ma non puoi dire ste cose, ci estinguiamo, dai. Però come mi devi far finire di parlare. No, perdonami, ma io non ti faccio finire, va bene? Allora potevi evitare di invitarmi, no? Coglione. Allora, scusate, io mi scuso con tutti, io non la penso così, non sono così, mi dissocio totalmente da quello che sta dicendo questa persona. No, lui è proprio così, la pensa proprio così, anzi pure peggio. E comunque questa idea dell'intervista a te stesso l'avevi già fatta in TG Casa Quarantena, quindi sei pure bollito, sai. Io riciclo le idee di proposito perché salutiamo... è appunto un podcast a basso impatto ambientale, perché deve sensibilizzare sull'ambiente, sugli tecnica. Sprechi, e tu sei una testa di cazzo, va bene? Vabbè, io me ne vado. Vai, bravo, bravo, bravo. Va bene, grazie. Questa era l'ultima, era la prima puntata, forse anche l'ultima, non lo so. Salutiamo la squadra tecnica che è stata comprata dall'Arsenal e quindi momentaneamente non gioca con pillola rossa. Ciao, ma squadra. Contiamo su dei ripescaggi. Ciao squadra tecnica. Ciao, torna quando vuoi, ti ricompriamo a zero. Parametro zero. A zero assoluto. Parametro zero. E a proposito di, diciamo, più che podcast è una raccolta firme che non c'entra molto, ma c'entra su una questione appunto... di futuro a livello di votazioni? Allora c'è partiti. Il partito Capibara, che insomma è arrivato alle cronache ultimamente, parte da Bologna, sta raccogliendo le firme per presentare il suo partito. Sostanzialmente servono 120.000 firme. Il partito Capibara, che cosa chiede? Il programma è assolutamente surrealista. Dica, Duca. Allora, i pilastri sono sostanzialmente sei. Quindi c'è la settimana lavorativa dimezzata, quindi da lunedì a giovedì, per un totale di non più di 30 ore, ma si parla di 28, qualcosa del genere. Reddito intorno ai 1500 euro, e fin qui insomma ci si avvicina un po' a quella. E cosa c'è d'altro? C'è sanità gratis, casa gratis, terme pubbliche per chillare, esatto, e cibo gratis, istruzione gratis, sanità gratis, che sono tutte cose che sostanzialmente dovrebbero, in una società perfetta, dovrebbero già essere. Nella Costituzione italiana dal 45 in poi erano già previste, sono state smantellate nel giro di 80 anni. Vediamo anche il perché, eh? Vediamo perché. Vediamo invece i partiti di oggi, quelli presenti. Facciamo un raffronto. Come il PD. Noi vogliamo presentarvi il nostro programma e anche proporvi un'alleanza. Sì, per fare più gruppo, per la coesione. Sì, per stare coesi, anche consapevoli che siamo una minoranza, però potremmo aprire quegli orizzonti che magari non sono ancora. Dai, su veloce che mi sono già rotto il cazzo, eh. Su. Ok, questo è il nostro programma. Eccolo qua. Allora, acqua pubblica. Sto cazzo. No a nucleare e trivelle. Sto cazzo. Eliminare Jobs Act e voucher. Col cazzo. Maggiori investimenti nelle energie rinnovabili. Sto cazzo. Diminuire le spese militari? Sto cazzo. Più tutele, più diritti per le donne. Sto cazzo. Bravissima. Sushi dopo? Sì, volentieri. Beh. E in generale, più sinistra e più democrazia all'interno del partito. Posso dirlo io? Prego. Sto cazzo! Camana Cucchiara. Comunque ragazzi, grazie di essere passati, eh. Poi magari un accordo lo troviamo. E mi raccomando, rinnovate la tessera del partito per il 2026. Scusate, ma almeno una caramella la possiamo prendere? No! Divorato. Eccoci, non siamo scomparsi, scusate, erano i Ruggine, il titolo l'avete capito da voi? Allora sì, precedentemente, giusto per fare un riepilogo, le Spana Circo Este. Con vino in cartone. Con vino in cartone. A proposito. Questo è un altro contributo del Regio. No, io sono corretta dalla giustizia, e perché mi hanno fermato con un tasso alcolemico di 0.7, che come puoi ben capire equivale a poco. Nonostante questo, beccata in flagrante, mi hanno ritirato la patente e sto pagando un giochino veramente oneroso e a dir poco immorale, perché vanno a controllare i capelli, esami del sangue, di tutto, di più, che è veramente una limitazione della libertà personale. Cioè, bere è legale, quindi ok, io alla guida non devo bere, ma perché tu devi andare a vedere quello che io ho bevuto nei 6 mesi precedenti o quello che andrò a bere? Nel senso, è una contraddizione incredibile. Più che una contraddizione, mi sembra veramente un modo drastico per controllare le persone, una politica di terrore, di controllo, oltretutto l'esborso di soldi che ti chiedono per ottenere la patente. E non solo, sei trattato come un criminale e la patente viene resa poi solo per 6 mesi e poi riborda esami. Cioè il tutto per, nel mio caso, uno 0,7, che veramente siamo di 0,2 sopra il limite consentito, che equivale veramente a niente. Quindi attenzione a tutti, bevete di più e guidate di meno. Allora, faccio un inciso anch'io su questa questione qua, perché a monte degli 0,6-0,7 che sulla famosa prova che veniva fatta una volta sulla striscia cammina dritto con un piede solo e tieni l'equilibrio, che era molto più, diciamo, corretto forse, perché ognuno ha una tolleranza diversa dall'altro, e a monte di questo viene invece rinnovata per interessi meramente danarosi la patente a chi ha 85, 95, 105 anni. Perché? Perché tanto si sa, prendono la macchina 4 volte all'anno, fanno 20 metri, vanno lì, si prendono un bullone, tornano indietro e pagano l'assicurazione, pagano il bollo e pagano la benzina, e quelli però fanno comodo. Quelli non gli fai un check ogni 2 anni, ogni anno, come si dovrebbe fare, perché comunque, cioè, i riflessi forse vengono anche un attimino a mancare. Quelli non li fai, perché quei soldi lì fanno comodino. La stessa cosa era sulle patenti nautiche, che all'epoca dell'esame della patente dicevano che qualsiasi persona che guidava una barca, soprattutto a motore, non aveva importanza che sapesse pilotare una barca. Tanto c'erano gli strumenti elettronici moderni, e quindi l'importante era che pagasse la patente e sviluppasse l'industria che produce barche. L'indotto. Scusate, giusto per addentellarci a quello che dicevamo prima, ragazzi, facciamo il passaggio successivo. Il fascismo, cos'era il fascismo e come nasce il fascismo? Sono i mercenari che difendono il capitalismo. Così è nato il fascismo nel 22, per reprimere il biennio rosso, con bande che a colpi di olio di ricino e manganello andavano a sprangare e a reprimere o uccidere qualsiasi oppositore. Allora, il fascismo oggi, come stiamo tentando di farvi notare in tutte le maniere possibili, esiste, è un esercito. non sono i naziskin e Casa Pound, ma sono quei 3 milioni di mafiosi armati che sono conglomerati al governo esistente, come dicono le tracce audio che abbiamo sentito. Quindi ogni lotta antifascismo passa dalla guerra alla mafia, che sono i fascisti armati del 2026. La mafia è il fascismo. La Condegliano, quella torre annunziata. E che siamo troppo mescoli, c'è un bordello. C'è troppo famiglia. C'è troppo famiglia. Quindi la napoletana è calabrese, siciliana è, che minchia fai? Oltre a rappresentare un'importante crocevia di rapporti mafiosi, Gioacchino Amico era riuscito a costruire rapporti molto stretti anche con figure di spicco della politica e in particolare di Fratelli d'Italia. Nel partito di Giorgia Meloni, l'uomo di Michele Senese c'era entrato dalla porta principale. La prima tessera gli è stata fatta tra il 2019 e il 2020 da Alice Murgia, assistente parlamentare dell'attuale sottosegretaria Paola Frassinetti. Nelle intercettazioni, Murgia informa Gioacchino Amico di aver firmato il modulo di iscrizione al posto suo. Ma no, se volevo chiedere, la testa del partito, come è finita? Ecco, io te l'ho fatta, adesso piano piano, adesso mi sento giù, una roba ho firmato io, ok, per te, cioè come grazie. Se l'avessi firmato tu, d'accordo? Grazie amore, non è un problema. Non vabbè. Mi denunciare. Vabbè, no. Daremo 1.000 euro a persona. 2000. E imbianchiamo la casa di tutti, gratis. Torneranno anche i pesci spada sulla costa. Signori, porteremo barche di pilo, navi cariche di pilo, insomma mente, fortissimamente pilo. Molto bene, molto bene. In questa grande campagna elettorale, dopo questo grande proclama che richiama un po' agli anni 90, la nascita di quei partiti lì, e dopo questa raccolta firme di questo partito nuovo, e in campo interno abbiamo Giuseppe Sala che si trova a un bivio, nel senso pezzo che di merda. Si trova un bivio che praticamente il comune di Milano, nel nome di Giuseppe Sala, si difende dalle accuse per il famoso caos edilizio e nel contempo è la parte lesa perché è comune e fa parte dei cittadini. Peggio di Cinturrino, pezzo di me. Praticamente sono sempre i soliti giri, si parla anche in questi giorni di leggi speciali, stanno indagando su queste leggi sempre in campo edilizio, si sono messe tre grosse città che dovrebbero essere Milano, Firenze e Napoli, se non sbaglio, quelle che hanno una mole di turismo che insomma devono ancora quadrare la cosa, però mi sembra che vorranno delle agevolazioni, un po' come quelle agevolazioni del non pagare gli oneri dell'urbanistica, insomma, no? Mafiosi, schifosi, gerrosi, allora, fascisti. Quelli di prima erano i Biancaneve, un pezzo del 1979, giusto per... Quelli di prima erano i Ruggini, ma forse l'abbiamo già detto. La Condegliano, quella torre annunziata. E che siamo troppo mescuglio, c'è un bordello. C'è troppo famiglia. C'è troppo famiglia. Minchia, la Napoletana è calabrese, siciliana è, che minchia fai? Oltre a rappresentare un'importante crocevia di rapporti mafiosi, Gioacchino Amico era riuscito a costruire rapporti molto stretti. Ciao, anche con sono figure Rebecca, di spicco del della Ministero politica della Natalità. Il governo attuale mette la difesa della vita al primo posto e di conseguenza è in prima linea nella lotta alla pratica meschina ed egoista dell'aborto. È giusto colpevolizzare la donna per una scelta che alcuni dicono dovrebbe essere personale? Sì, è giusto. Rendere l'aborto un percorso tortuoso, quasi impossibile da portare a termine, con burocrazie e complicazioni interminabili, beh sì, è giusto. Far sentire il battito del cuore alla donna per convincerla a non abortire. Sì, è giusto. Dare una mancia, un 100-120 euro, alla futura madre per fare la scelta giusta? Sì. È giusto, infine, mostrare i cadaveri e organizzare successivamente il funerale al feto? Eh sì, ma questo non è sufficiente. Perché noi donne siamo decoccio e allora bisogna andare oltre, bisogna andare all'origine del problema. Ed è per questo che il Ministero della Natalità ha pensato e creato i funerali dello sperma. Perché anche lo sperma è vita. In nome del Patris et Filis et Spiritus Sanctus. Amen. Funerale dello sperma. Perché la vita inizia prima. Ma prima. Prima, prima, prima. I fascisti che hanno massacrato e derubato Roccastrada hanno detto di aver vendicato i loro morti di Sarzana e lo hanno telegrafato a Mussolini. E i giornali borghesi lo hanno pubblicato. Quei socialisti che a Roma si illudono di poter fare la pace con i fascisti sono serviti. Se vogliono continuare a illudersi, facciano pure. Ma le illusioni non fanno per noi. Noi dobbiamo aprire gli occhi, aprirli presto e bene. Compagni, ieri Sarzana, oggi Roccastrada, domani toccherà alle grandi città industriali. Toccherà a Milano, a Torino, a Genova. I fascisti non sono più piccole bande male armate e disorganizzate, ma eserciti veri e propri. E noi qui a Sarzana lo abbiamo ben visto e constatato di persona. Siamo di fronte a un nuovo sviluppo del fascismo. Compagni, il colpo di Stato fascista è già incominciato ed è incominciato qui. A Sarzana, io voglio sapere dalla Confederazione Generale del Lavoro se ha predisposto un piano di difesa che permetta alle popolazioni di difendersi e di resistere all'offensiva fascista. E la stessa domanda rivolgo al sindacato Ferrovie. Non basta più. G20, vai. Allora, siamo veramente agli sgoccioli, quindi vi diciamo un attimo quello che c'è in giro. Quando a parte, ci si diverte. A parte la grande manifestazione contro la manifestazione 18, abbiamo i pancake a Livorno e cogliamo l'occasione di, volevamo metterli, non ce la facciamo, cogliamo l'occasione di lanciare, per salutare Ulisse che arriverà dopo di noi. Esatto. E ci sono sabato al Circolo Gagarin in Rise Above Dead, altro pezzo che manderemo Livorno le prossime volte. E c'è sabato organizzato una cosa un po' speciale Marrakesh, nel quartiere della Barona, al Barrios, dando la precedenza all'acquisto dei biglietti alla gente del quartiere. Quindi per questo e perché un po' è la nostra pre-sigla, post-sigla, lo mandiamo in onda e dopo, esatto, successivamente avremo comunque il Nutrio Mannaro e Valentina Blu con la rubrica di poesie. Esatto. Capito, ragazzi? Noi vi salutiamo già qua. E intanto Marra. È così caldo. È così caldo. Marrakesh. Innovativo, le perle che scrivo, non perdere il filo, il vuoto nell'io, il vuoto nel frigo, la verba antidivo, l'autoironia e il sorriso, non sono mai solo rime, io zio mi esprimo, i libri che leggo, i film che osservo, un futuro incerto, un passato la servo, una voce diversa, da un nuovo gergo, la pura poesia, uscire di senno i brandelli dell'anima mia, stesi a asciugare all'inferno, eucaristia, educazione cristiana, e così sia, intelligenza, qualcosa che scatta ed è quasi magia, ciò che provo non ha nome, divento vocaboli con l'immaginazione. Inventavo i giocattoli, tutti i miei sbatti, pochi ne escono intatti, questi anfratti nella mia testa, carrozze trainate da rati. Il re delle fogne, saggia le gogne, i soldi che non ho, l'arte dell'arrangio è quella di trovarsi rogne. La vita che sfreccia, la coca fa breccia, la feccia che vedo, la via di Carlito, non riesco a lasciarmela indietro. Essere vero, essere umano, essere un vero essere umano, e che cazzo, non sempre sincero. Soldi, potere, rispetto, fai l'inverso ed aggiungici senza affetto. E il teorema del reietto, il vero talento, l'essi più copiato al momento, genio del ghetto in ascesa, con rispetto di tutta la scena. Tutto questo, questo è Marrakesh, Marrakesh. Tutto questo, questo è Marrakesh, questo è Marrakesh. Tutto questo, questo è Marrakesh, Marrakesh. Tutto questo, questo è Marrakesh. E se ti ha fatto di meglio, se l'è tenuto per sé. Se ti ha fatto di meglio, se l'è tenuto per sé. Se ti ha fatto di meglio, se l'è tenuto per sé. Se ti ha fatto di meglio, se l'è tenuto per sé. I libri di Bach, i testi di Nas e Biggie, Milano città, la cruda realtà qui assisti, l'era cyberpunk, la rete trabocca di verità, così tanta che nessuno l'ascolta, capisci? Uomini pratici, blog e forum democratici, traffici di sostanze, di files, sbirri telematici, piace qui, ora si chiamano Allen, le strade lastricate, gli infami che mitizzate, le piazze quando esistevano, i pazzi si sistemano, gli altri o li legano, crepano, è un dedalo, vari lavori di merda che ho fatto, dal magazzino al supermercato, fra schiavo sotto contratto, zio troppi coi filippini, pagato a cotti, ma sente il giorno del compito, in testa c'ho troppi no, inganno è palese, Cristo che biondo è palestinese, parole che esplodono come Geyser contro il paese, ed ora so ciò che dico, zio prima sono stato zitto, Barona quando ero piccolo, gli anni di Nazza e Chico, Dario ora dove sei, fottuto migliore amico, il sangue che condivido, fra rappo con un motivo, ti viaggi con niente in tasca, a parte souvenir, di Amsterdam nella pancia, sognando sopra una panca di essere un re, Marrakesh. Tutto questo e quel poco d'amore che c'è. Tutto questo, questo è Marrakesh, Marrakesh. Tutto questo, questo è Marrakesh, questo è Marrakesh. Tutto questo, questo è Marrakesh, Marrakesh. Tutto questo, questo è Marrakesh. E se ti ha fatto di meglio, se l'è tenuto per sé. Se ti ha fatto di meglio, se l'è tenuto per sé. Se ti ha fatto di meglio, se l'è tenuto per sé. Se ti ha fatto di meglio, se l'è tenuto per sé. Thank you. Ciao a tutti, saluto gli ascoltatori di Radio ZAM. Lasciatevi trasportare da questa nuova onda poetica per ascoltare i miei scritti del giorno. Per oggi ho preparato due testi in cui prendere in esame uno dei significati dell'estremo. Da una parte può essere la profondità in cui sono custoditi ricordi che non possono tornare. Dall'altra c'è la leggerezza che sfugge dal grigiore di una monotonia frettolosa e cupa. Benvenuti, buon ascolto, Valentina Cavera. Memorie di un vascello. Sottomarino, dicelate parole, sibillano nel buio degli abissi, mescolate ai notturni di balene, indomite sfidan le onde, sommergibili di sensazioni, squali divorano i passi nel mare, passati nel baluginare, tesori da dimenticare. Uno sguardo sul cielo. In mezzo a tanta gente che corre via, velata farfalla scala l'oblio. Vi rompe aria, coriandoli, luce. Giù tutto si ottenebra forte, la croce. Basterebbe uno sguardo straniero. Quella nuvola supera la strada, cotone bianco, pagine d'infanzia. Una buona serata a tutti, ascoltatori di Radio ZAM, da Pietro il Nutrio Mannaro, l'anarco menefreghista, che vi osserva dalla sua posizione privilegiata nel sottoscala. Queste poesie sono dedicate ai miei amici Stefano e Jacopo, che ci hanno lasciato in questo periodo negli anni scorsi e a cui voglio ancora un sacco di bene. Voglio essere la foglia più piccola e alta di questo meraviglioso longilineo albero, al di sopra delle antenne wifi che seminano merda nei nostri cervelli, della centrale elettrica e dello smog, sopra il rumore assordante di macchine, uomini, sirene e di tutta la banda da circo alienato. Guardarvi da lassù, ondeggiando in balia del vento, senza vertigine, senza paura, sghignazzando e sputando sulla nostra miseria. Ogni cosa si logora, si usura, la speranza si tramuta di pallida fede, ci si aggrappa agli scogli come cozze, vongole e fritto di pesce. Morfeo, con l'aiuto della moglie morfina, accarezza le mie palpebre e porta un sonno denso di sogni, come una maionese impazzita, e nel sogno ritorna colei che mi ha spaccato il cuore, un agosto, all'inizio della touchscreen era. Quel che era, fu. Libere la verità. Ora Radio Popolo alla riscossa, pillola rossa, pillola rossa. Radio Libere alla riscossa, pillola rossa, si ascolterà mercoledì. Zam, zam.